Sembra che le lancette dell'orologio del genocidio abbiano ripreso a correre. Purtroppo che quella di ieri e anche oggi, stamattina, vi sono state diverse incursioni aeree e bombardamenti con 14 morti. Non sia una semplice interruzione della tregua, ma sia la prosecuzione di quel piano di pulizia etnica che punta alla deportazione della popolazione della striscia di Gaza altrove. Proprio nei giorni scorsi erano stati fatti fuori uscire in qualche modo delle informazioni che davano come possibile location per la popolazione di Gaza tre paesi martoriati, quale la Siria, la Somalia e il Sudan. Noi riteniamo che questi progetti siano assolutamente folli, che si debba immediatamente cessare il fuoco. Bisogna che l'Europa, che evidentemente è interessata solo al piano di riarmo e al fronte orientale europeo e non invece a questo dramma che si sta consumando nella striscia di Gaza, agisca tramite sanzioni, tramite la richiesta di immediato cessate il fuoco e tramite il riconoscimento dello Stato di Palestina. Quindi, insomma, i pretesti utilizzati dall'esercito israeliano su presunti movimenti di Hamas sono appunto pretesti rispetto a un piano che va avanti da tempo. Sì, guarda, io dico sempre questa cosa, che per combattere i terroristi non avremmo mai consentito, per esempio, per combattere i terroristi dell'IRA, l'esercito repubblicano irlandese, al governo di Londra di annichilire, distruggere i quartieri cattolici di Belfast, costretto la popolazione a andarsene via. E allora la domanda che ci dobbiamo fare è perché questo consentiamo che questo avvenga per i palestinesi? Evidentemente sono considerati, almeno da chi dirige la tolda di comando del pianeta, esseri umani di serie B, per i quali non bisogna applicare il diritto internazionale. Vorrei ricordare che la Corte Internazionale di Giustizia ha aperto un procedimento contro Israele per potenziale reato di genocidio, e questo purtroppo si sta ogni giorno concretizzando. Dovrebbero cessare di parlare le armi, ma ho l'impressione, con il ringresso tra l'altro dell'estrema destra messianica nel governo Netanyahu, che si voglia andare verso la soluzione finale, ed è una soluzione che fa venire i brividi alla pelle, fa tremare le vene e i polsi, perché significa sostanzialmente sacrificare dalla faccia di quello scacchiere 2 milioni e 200 mila persone che hanno invece diritto a vivere in pace sulla loro terra. Voi nei comunicati sottolineate, come dire, un po' l'inerzia dell'Unione Europea, che ieri comunque ha detto che deplora quanto sta accadendo, ma nel concreto non sta applicando sanzioni e oltretutto continua il commercio di armi verso Israele. Sì, l'atteggiamento dell'Unione Europea è di uno strabismo, se confrontato alla vicenda del conflitto russo-ucraino, incredibile. Tutti se ne sono accorti nel mondo, insomma, che l'Unione Europea ha un doppio standard. Questo non va bene. Invece avrebbe gli strumenti per obbligare il governo israeliano al cessate il fuoco. Uno appunto è lo stop immediato al trasferimento di ogni armamento nei confronti di Israele, l'altra, per esempio, è l'applicazione dell'articolo 2 del trattato di associazione tra Unione Europea e Israele, che prevede proprio che in caso di violazione dei diritti umani si possa sospendere questi accordi di favore nei confronti di Israele. Ora, diritti umani, 400 uccisioni di civili in un colpo solo, in un'operazione militare, solo nella giornata di ieri, che cosa sono? Poi, se andiamo alla contabilità più complessiva, siamo ormai intorno a 50.000 morti accertati, più diverse migliaia di dispersi che probabilmente stanno sotto le macerie degli edifici distrutti durante i mesi di guerra. Sappiamo che su Netanyahu e altri esponenti del governo israeliano pende un mandato di cattura internazionale della Corte Penale, appunto, internazionale, che è un nostro tribunale. In questa vicenda si sta smantellando anche il diritto internazionale? Assolutamente sì, perché il governo degli Stati Uniti, che non ha mai sottoscritto il trattato contro il genocidio, mentre lo ha sottoscritto Israele, non riconosce dunque la Corte Internazionale di Giustizia. Questo significa che ha varato una serie di sanzioni, una serie di rappresaglie contro i giudici anche del Tribunale Penale Internazionale, quello che scaturisce dall'accordo di Roma, per cui noi chiediamo assolutamente che l'Unione Europea applichi un ombrello di protezione nei confronti dei giudici di entrambi i tribunali dell'AIA per proteggerli dagli effetti delle sanzioni, perché significa che un giudice può essere arrestato dagli Stati Uniti, significa che non può avere conti bancari se questi utilizzano, insomma, software hardware statunitense, significa che non si possono usare i satelliti per indagare, dunque portare avanti il lavoro fondamentale di una magistratura indipendente. Purtroppo abbiamo sentito parole molto contraddittorie da parte dei governi dell'Unione Europea, invece di difendere quella che dovrebbe essere un dato caratteristico, insomma, dell'Unione Europea, cioè lo Stato di diritto. E qui lo stiamo smantellando anche tramite la reticenza, tramite il fatto di non mettere in campo iniziative per frenare le sanzioni statunitensi. Non ci dimentichiamo che a chiedere l'applicazione della Convenzione sul genocidio è stato un paese come il Sudafrica, contro il quale la stessa amministrazione Trump sta per questo, per ritorsione, applicando una serie di sanzioni culminate con l'espulsione dell'ambasciatore del Sudafrica negli Stati Uniti.